24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Possiamo aver paura di Salvini, ma non perché Salvini non faccia paura, e mi riferisco alle idee politiche, non alle copertine. Il punto centrale, io ho fatto Fonsi, lui può fare l'orso Yogi, è normale. Fare il cambio fra Putin e Renzi domani mattina. Ecco, ma perché? Solo un tarato può pensare che Putin e la Russia siano un problema. Putin è un alleato per combattere contro il terrorismo internazionale. Non mi preoccupa la copertina, quanto mi preoccupa quando incontro la Le Pen. Lì si vede come la pensa e mi preoccupa perché a me hanno insegnato ad avere paura del fascismo. Questo è, diciamo, lo dico correttamente, signor, ma in sintesi la Boschi l'accusa di essere un fascista. E mi sembra Cappuccetto Rosso che ha paura del lupo mannaro adesso. La signora Boschi dovrebbe fare le riforme in Italia e già questo è allucinante. Non do giudizi sulle foto e sui bikini che non mi interessano. Io vado orgogliosamente d'accordo con la Le Pen. Ecco, a me va bene tutto, ma quando il compagno S mi tocca la Boschi comincia a innervosirmi, ve lo dico. Ve lo dico, Colei che parla con le S che suonano, con le C aspirate, con... Caro compagno S, attento, che mordo. Allora, sono le 6:31 minuti, ben ritrovati, debosciati d'Italia, siete svegli? Qualcuno mi scrive e dice che a quest'ora urlo, magari state sotto le coperte e vi disturbo. Ebbene, sono qui apposta, forza, fuori da quelle coperte, pelandroni, debosciati, dai! Saluto Lorenzo Nespoli, che ha lavorato anche ieri, e l'alpino Peter Vescapè, che è tornato, eccolo qua. Senti, Happy Days, che bei tempi, col vero Fonzi. Chi ti piaceva di più a te? Fonzi, Ricky, Pozzi, Fonzi, certo, Peter Vescapè fa Fonzi. A te, Lorenzo? Non ti sento. Non ho mai visto Happy Days. Possiamo chiudere, andare tutti a casa. Voglio subito chiedere un soccorso a Marione Adinolfi. Marione, no, buongiorno. Non ha mai visto Happy Days. Non ha mai visto Happy Days. Ho fatto bene, era bruttissima Happy Days. Ma dai. Era brutta. Ma che succede? Mi raccontate una puntata di Happy Days? Ma con sottiletta, Johnny. Ma non succedeva niente. Ma dai, era tremendo. Da Lotte e pensata Happy Days, ecco, Happy Days era una puttanata, vabbè, voglio salutare allora. No, apriamo il Parlamento, dai, che intanto voglio capire come va l'esperimento sociale che vede Adinolfi. Vado a prendere un caffè, eccola, quindi semmai ci vediamo più tardi. Eccola qua la Boschi. Hai capito, cara direttorissima Aurora Lussana, se il compagno S mi tocca la Boschi, Aurora? Milan, no, così non va bene. No, sei depressa, cos'è? No, perché uno come te è così attratto da questa donna di potere, no, non va mica bene. Tu sei un giornalista libero, non devi avere questa sudditanza psicologica. Ma lascia stare il potere, ma chi se ne frega il potere? Ah, proprio un fattore estetico? Ma sì, dai. Beh, allora va bene. Vabbè, ma dai, il potere. No, lei è una bella tusa, lei è proprio una bella tusa. Smettila, ci mancherebbe. Smettila, si sente già il tuo tono ironico. No, no, una bellissima ragazza, ci mancherebbe. Si sente già il tuo tono ironico. Ecco, mi è partita la frequenza di Radio Padania. Eccola lì. Attenzione, e che facciamo? E che facciamo? No, cosa vuol dire che è partita? Hanno chiuso anche Radio Padania? No, no, ad Inolfi stanno chiudendo in diretta, stanno chiudendo in diretta Radio Padania, anche Radio Padania. Andiamo sui monti a combattere per la libertà. La ridotta padana. Sì, sì, sì, sì. Sai che Marione, lei ci parla sempre dalla ridotta padana, che non ho capito bene da dove è posizionata. Ma è ovvio, siamo in semiclandestinità, mica se la fai così. Ah, in semiclandestinità. Ma fai uscire un ciclo stirato, fai fai qualcosa, fai, non so, Radio Londra, qui Radio Padania, no, esiste Radio Padania. Tu, Marione, ne abbiamo già parlato tante volte, eh? Radio Padania Libera, RPL 103.5, geniali, eh? Sono geniali. Bello. RPL 103.5. Bravi, lo copiamo. L'ho già sentita questa. Comunque, Marione, piccolo aggiornamento sul tuo esperimento mediatico. Marione Adinolfi, sapete, ha dato il suo cellulare in diretta per chiudere la segreteria telefonica nostra. Ho mandato anche sul Fatto Quotidiano, si sono interessati incredibilmente a sta stupidata. È vero. Hanno montato tutto un cazzo. Comunque, ricordo sempre ai miei amici ascoltatori, quelli psicotici soprattutto, 334-3798-534 è il mio cellulare, è così, non chiamate più la segreteria telefonica di Milan e non la riempite delle vostre deliri, delirate con me, riempite la giornata. Sì, certo, mi fanno notare una cosa dalla redazione, il buon Lorenzo mi scrive subito, da quando è dato il cellulare in segreteria telefonica, effettivamente, ma ti giuro, non è uno scherzo, non arrivano più insulti a Mario Adinolfi. Perché lo chiamano direttamente? Non è meraviglioso che l'esperimento riesca? Insomma, è meravigliosa questa cosa. Procediamo infatti alla lettura anche del cellulare di Aurora Lussana, che aderisce con entusiasmo a questa iniziativa. Allora, il cellulare, vuoi darlo tu, Aurora? Non ce l'ho più il cellulare. No, non ce l'ho. Pensa se diamo il cellulare di Aurora Lussana, cosa succede? Che succede? Lo posso dire ad Aurora, guarda, sì. Chiamano anche tante ragazze e ragazzi molto carini, gentili, che vogliono fare i complimenti, che ti dicono continua così, sei coraggioso, insomma, no, veramente è una cosa... No, mi chiameranno i fan di Happy Days, perché anch'io penso che sia stata veramente una becerata quella cultura lì americanona. Mamma mia, due, ma basta, due distruttori di Happy Days, ma che gioventù. Sì, ma una roba proprio, quella pornografia. Vi dico che sul mio profilo Facebook in questo momento hanno appena messo la foto dei due genitori di Ricci, che non mi ricordo neanche come si chiamavano. Ma grandi, hackerate tutti il profilo. Flavio Salvatori che ha appena messo questa foto. Ricky Cunningham come si chiamavano i genitori? Dai, lì quello, il cicciottino e la sciura tutta elegante. Quella che si mette il cappellino, il leopardo per andare alla loggia massonica. Ma quale loggia massonica? Era la loggia massonica, dai. Vabbè. Sentite un po' che cosa, sentite un po' questa, la telefonata media. Pronto? E magari Adinolfi, sì. Agliccione di merda! Ecco, questa è la telefonata media che riceve Marione Adinolfi. Chiamano con l'anonimo, li riconosco subito, sì. Sono meravigliosi, chiamano con l'anonimo. Cara Aurora, tu che telefonata ti aspetteresti? Una telefonata media di uno che ti chiama e dice, pronto? Sì, sei Aurora Lussana? No, uguale. No, aspetta che ci ho perso ancora la frequenza. Ho capito, ma sei con noi, ascolti Radio Padania, ma adesso... Ma che mi dicano quello che vogliono. Sono cresciuta in un liceo rosso, sono abituata al disprezzo e anche al, ma non c'è problema, figurati. Comunque adesso Aurora mi interessa la sottocultura americana invece ancora, ma basta sta roba di Happy Days, invece di studiare le nostre saghe. Ecco, non so quelle celtiche, nordiche, ma anche, non so anche quelle slave. Cioè, capito? Capito, cari amici, invece di perdere tempo con Happy Days e divertirti e divertirvi, dovete studiare. Urso Yogi, ma guardassero i manga giapponesi che imparano qualcosa, mica l'Urso Yogi, su. Allora, qui è il momento per tirar fuori tutte le tue unghie, cara Aurora. Hai un romano, un esponente di quella Roma ladrona che sta riempiendo le pagine dei giornali. Sentite qua Renzi ieri, Renzi, non lasceremo Roma ai ladri. Noi non sappiamo se quello che sta emergendo dipinge il quadro di un atteggiamento di tangentari alla matriciana o di mafiosi capaci di relazioni pericolose. Sarà la magistratura a doverlo dire. Io so che noi non lasceremo la capitale in mano ai ladri. Eccolo qui, Aurora, senti con che piglio, con che piglio, con quel bel girocollo rosso orripilante. Sì. Vabbè. Sì. Ti ha convinto? Sì. No, va bene, no. Non so, le hanno volute loro le operazioni umanitarie e militari, perché per loro l'immigrazione è una grande ricchezza, adesso abbiamo capito bene, e è così, la Roma qua della sinistra, della destra, quella roba lì, e va bene, ma faccia un po' quello che vuole Renzi. Vabbè, faccia un po', c'hai qui a di nuovo Fiazzannalo al collo, ma tanto arriverà fra qualche mese l'Europa a dargli una pedata, quindi guarda. A dargli una pedata, vi dà una pedata di Norfi l'Europa. Comunque, Flavio si informa che i genitori ricci si chiamavano Flavio Salvatore, si informa, si chiamavano Marion e Howard. Certo. Howard Cunningham, ma certo, Howard Carminati, con quel cappellino. Telefonata, insomma. Vabbè. Roma, la verità è che Roma è un disastro, lo dico io al posto della Lussana. Roma è marcia da morire, ma non dobbiamo concentrarci sul marciume di Carminati e qualche politico. Quello è il racconto di una città marcia, attenzione, sì. 62.000 dipendenti comunali, decine di migliaia assunti nelle municipalizzate a chiamata diretta, 500.000 di dipendenti pubblici, una città statica che vive di spesa pubblica, che ha una voragine colossale nei conti pubblici. L'AMA perde 1 miliardo negli ultimi 10 anni, l'ATAC perde 1,5 miliardi. Quello è l'elemento che va fotografato, che se ci interessiamo solo al romanzino criminalino, diciamo così, quindi alla narrativa che ne deriva, non raccontiamo quello che sta veramente disvelando questa inchiesta, cioè di una città marcia nel profondo. Tra l'altro, mi devi togliere una curiosità e aiutarmi, perché questo Odevaine, scritto così, ma ieri l'ho sentito pronunciato dalla Sette, Odevaine, come minchia si pronuncia? Cioè, è Odevaine? Odevaine, l'ex vice capo di gabinetto di Walter Veltroni. Sì. C'è una persona su cui io metto la mano sul fuoco, è Veltroni, c'è la sorpresa, ecco, di vedere Odevaine in questa condizione. Me lo chiedo, ma per carità, Veltroni, dobbiamo forse farlo arrivare tutto felpato e tutto educato al Quirinale, quindi non si può disturbare una persona che deve arrivare tutto felpato al Quirinale. Ma questo lo escluderei proprio, che non si possa immaginare. Però voglio dire, si è scoperto che questo Odevaine, allora lo pronunciamo così, Odevaine, come si pronuncia giustamente, aveva delle per carità, delle condanne in passato per droga, segni in bianco, poi si è cambiato il cognome da Odevaine a Odevaine ed è diventato capo di gabinetto di Veltroni e nessuno ne sapeva niente. Vice capo di gabinetto, nessuno ne sapeva niente, ovviamente. Beh, il problema è quello, che l'idea che nessuno ne sapesse niente è almeno fantascientifica. Molti ne sapevano, diciamo, in termini generici, nessuno se ne è interessato in termini specifici. Cioè, Odevaine cosa fa? Incassa una stecca, una tangente, addirittura uno stipendio fisso dalla banda criminale per oliare i meccanismi. Ora, questo tipo di comportamento, io ritengo, pur non avendo notizia criminis immediata, sia veramente diffuso nelle strutture burocratiche romane, che gestiscono miliardi e miliardi di euro di spesa pubblica. Guardate che sono tanti, molti più che in altre città, i miliardi che a Roma sono gestiti e che tendenzialmente venivano poi ripianati da una legge nazionale, che appunto, canale pagava la Lussana, ma il problema non è, capito, il meccanismo Carminati, è che il meccanismo è diffusissimo, sì, e sostanzialmente certo. Comprava consenso, e questo faceva, comprava consenso assumendo gente, ma non 5 amici o 10 parenti, decine di migliaia. E che devi fare, Aurora? La prossima volta verranno a chiederti ancora un po' di soldi, dai. E ma tu? Sì, però è anche la storia e la tradizione dei clienti dell'antica Roma ad oggi. Bisogna anche riconoscere che ci sono storie e tradizioni che si ripetono. Cosa c'è, no? Le virtù civiche dei comuni lombardi sono un'altra storia. Ma eccola lì, eccola lì, la zampatina educata, la zampatina educata di Aurora Lussana. Sentite, e intanto Salvini che ti fa il compagno, però questa è bella, il compagno S, grande Putin. Ma come grande Putin, Marione, a Mosca, dove le ragazze possono alle 2 di notte girare indisturbate nella metropolitana. È la nostra detto campagna di Russia. Cos'hai contro la campagna di Russia? Ma per carità, cioè, ma allora in un tempo i soldi li prendevano i comunisti, adesso Salvini dice se mi fa un bel prestito io non lo disprezzo. Sentite qua Salvini su Putin. Se Putin giustamente dal suo punto di vista dice mi rompete le balle, allora io rompo le balle a voi, tanto il gas lo vendo a qualcun altro. E qua saltano altri miliardi di euro, altro fatturato. Vabbè. Ma dov'era Radio Padania qua? Forse è ovvio, ovvio, ovvio, a Radio Padania, sentite ancora Radio Padania. Ieri sempre, da Mosca. Sempre, ma ieri da Mosca? Qui sì, Radio Mosca. Qui Radio, no, Mosca. Matteo, no, dico, Salvini ieri era Mosca. Certo, questo me ne sono accorto. Convegno. E ha fatto un collegamento con Radio Padania per aggiornare tutti. Benissimo. Sentite, sentite sempre Salvini, sulla Merkel, sulla Merkel. È vero che le riforme di Renzi fanno ridere, le sue ricette economiche sono disastrose, però adesso che la Germania e Bruxelles continuino a chiedere altri sacrifici alla mo' di legge Fornero, ci hanno rotto le palle. Andassero a scopare il mare. Oh. Aurora, no. Ma poi secondo te lo liberano da Mosca? Ma è già rientrato ieri sera, Matteo Salvini, ha incontrato il presidente della commissione esteri alla Duma, Alexei Puskov, e ha parlato con un po' di imprenditori che sono molto molto preoccupati per le sanzioni. Senti questa, Marione, cosa ha raccontato a Putin, su cosa battagliamo? Quando oggi ho raccontato che noi dobbiamo battagliare anche per il presepe, qua non ci credevano, perché se sembra una Marione, è Marione, è stata gestita geniale, fatto bene il presepe, no vabbè, il presepe, sì, quella è la bella mossa. Salvini sta azzeccando le mosse, per fare il leader dell'opposizione sarà perfetto, ridotto a quanto, il 10%? No. Lo scorso sabato a Bergamo, di fronte alla scuola dei amici della Celadina, c'è stato questo presidio della Lega, abbiamo portato un presepe. Secondo me sarebbe venuto volentieri anche Mario Dinolfi. Anche Mario Dinolfi, sicuramente. Tra l'altro a Mario Dinolfi devo dare una notizia dopo il traffico che lo metterà un po', lo innervosirà un po', lui che sta partendo col quotidiano La Croce. Sentiamo, traffico. Sei un bravo ragazzo. E i bravi ragazzi arrivano sempre ultimi. Beh, non necessariamente. Ma dovrei sudare un bel po' per arrivare fra i primi tre. Tutto qui. 24 mattino. Smettetele la pubblicità al bruttone. Quello se sta a fare i milioni. E basta, mo. Ditele a Faraone di andare ad occupare Piazza Sant'Oliva, altro che scuola. Questo solo Piazza Sant'Oliva può occupare. Arrivederci. Caro Alessandro, un altro anno è passato, ti guardi allo specchio e ti vedi un po' invecchiato. Ma quel capello bianco che hai notato è solo il Milan di questi ultimi tempi che te l'ha regalato. Alessandro, ma tu non hai capito. Schettino intendeva, dopo Dio ci sono io, Ascendere, fermi, fate largo, dopo Dio ci sono io. Ma che gli prendesse la cagarella a fischio, che personaggi, solo in Italia. Per la visibilità di Salvini, facile farsi vedere con Casadei, ma ora ti voglio vedere con i Village People che canti Go Nord, ciao! Con Alessandrino al mattino e con Aurora, ora et labora. Aurora, ora, et labora. Capito, Aurora? Ora et labora. Oh, ecco, labora in questi tempi è un po' girare il coltello. Ma cosa fai durante le giornate nella ridotta padana? Sto facendo i corsi di aggiornamento professionale. Ah, fantastico, fantastico. Mi sembra giusto. Mi sembra te l'hai fatti. E ne devo andare anche oggi, devo fare il relatore da una parte. Vedi, professionisti. No, devo andare, poi devo ascoltare altri. Vabbè, tu li hai fatti, Mariola Dinolfi? Ah, io ho scritto un libro, vale, no? Lui ha scritto Voglio la mamma. Pare che valga. Che non ho frequentato corsi, no, mi autodenuncio. Allora, vabbè, verrai espulso dall'ordine. Allora, non sono preparato per andare a seguire i corsi. Allora, c'è chi mi chiede, Milan, come si fa a conoscere la Lussana? Grazie Marco, è di Milano, non lo so. Adesso cosa rispondi? La Lega mi trova lì. Ecco, comincia così, dai, delle belle saghe della Lega, alle feste e niente. Mentre c'è chi dice, Adinolfi ha dato il suo cellulare, perché con tutte le chiamate che riceve gli ricaricano il cellulare. È vera questa cosa? No, c'ho l'abbonamento. C'ho l'abbonamento. Mi frego sempre. C'è chi ci chiede, ci dai anche il cellulare della Brescia? Mandiamo un grosso... Mando un grosso abbraccio a Rossella Brescia, ovviamente. Ma che cosa c'è, Aurora? Non posso salutare la Boschi. La venerazione per la Boschi, sì. E poi c'è la venerazione per questa meraviglia che è la Brescia, insomma, bionde, more, di tutto. Va bene. Scenata di gelosia, una clamorosa scenata di gelosia padana da parte di Aurora. No. Forse tua moglie ti riempie di botte, ma va bene così. Eccolo là. Va bene, allora devo dare questa notizia a Mariona Dinolfi, che è molto contento, lui che ama tutti gli omosessuali. Eccolo qua, prima pagina del giornale. Sai quanto valgono lo shopping arcobaleno, cioè quanto è il volume d'affari quantificato di una clientela d'oro, così la chiama, o meglio d'arcobaleno, il giornale? 1.000 miliardi, secondo le statistiche americane. Gli omosessuali hanno un potere d'acquisto molto superiore agli etero. 1.000 miliardi. Io non ho niente contro gli omosessuali, sono contento che sono ricchi e vanno a fare shopping. Detto questo, è chiaro che su alcune logiche anche mediatiche, il fatto che il consumer, diciamo così, gay è molto più denaroso del consumer che vive in famiglia, tendenzialmente risparmia, perché la famiglia con 6 persone è costretta a risparmiare, spiega qualcosa anche sul mainstream mediatico, cioè su come funziona il meccanismo per cui se Adinolfi dice, per esempio, che è contrario al matrimonio omosessuale, è immediatamente un omofobo, perché il racconto sui media è questo. Invece non è vero, io veramente non ho alcun problema con le persone omosessuali, credo che però un ragionamento sul fatto che le famiglie che fanno fatica vanno, diciamo, prioritariamente aiutate, sia un ragionamento. Questo è un po' il clou di Voglio la mamma. Quanto manca alla nascita del giornale? Ma poi prendi anche... 13 gennaio siamo in capito? Aurora, scusa se parliamo di giornali che nascono, capisco che... Attenzione! In tua presenza. La distribuzione nazionale costa un boato, come sa bene Aurora. Quanto costerà la croce? Più di 1 milione, ovviamente. No, quanto costerà in edicola? Un milione, mi dia la croce. Un milione, ritorniamo già. Esatto. Costa 1,50 euro come il foglio, il nostro competitor. Però, subito. Un euro così cala l'1,50 euro. Comunque, Aurora, sì, prima me lo chiedevi, te lo do. Ecco, 334-37-98-534 è il cellulare di Adinolfi, che mi chiedevi. Di Adinolfi, non di Milan. Lei ha fatto la scena di gelosia a Tripoli, il tuo di cellulare. Chiami Milan. Vabbè, a proposito, ma di calcio non si parla oggi, come funziona? Allora, sentiamo Alemanno che... I milanesi sono andate bene, insomma. Mettigliela che così gode un po', dai. Insomma. Sono orrenda. Ma quanto è bella, quanto è bella. Ma la Lozana ti fa Juventus o la Lozana ti fa Atalanta? L'Atalanta ha pure vinto in rimonta l'Atalanta. Molto meglio del Milan, diciamo. Ah, mamma mia, che noia. Auguri però per la stagione. Chiamami sempre il giorno dopo la domenica calcio. Io lo faccio perché finirà il campionato e vincerà la Roma, e tu lo sai questo. Sì, come ho fatto i servizi. Grande prestazione col Sassuolo. Questo è l'inno dell'Atalanta, attenzione, in bergamasco stretto, eh. Ma che cantano? Cosa sono degli unni che allora cantano o no? Cantano ogni tanto Aurora o fanno solo invocano lo spirito paratico. E allora la magica dea, sì. Sì, è una dea. Ma cos'è stile Pooh? Cos'è? È il cantante dei Pooh, che è il cantante. Ecco, infatti mi sembrava un po' di mitologia, era una dea bellissima Atalanta. Vabbè. Senti un po', ma tu ci credi davvero a Salvini a Mosca? Adesso dì la verità, non hai provato neanche un attimo? Ma perché, scusa, grande popolo quello russo e in questi anni ha dimostrato di saper crescere economicamente, e credo che sarebbe un partner non solo commerciale, che va bene, ma anche per una nuova geopolitica. Oh, Mario, non ci crede veramente? Non è che non è una... ma chi devo credere? Ma io devo credere a chi ha inventato Happy Days? Ah, ma non è che l'ha inventato lui. Comunque c'è chi ci scrive: voglio il numero di Aurora. Tutte le Aurore sono bellissime. Aurora, dobbiamo chiudere, ci devi dare la ricetta. Dai, la ricetta padana di questa settimana. Non c'ho niente pronto. No, appunto, perché sono via, sono da un'amica stasera, mi dovrebbe cucinare lei. E cosa vorresti? No, lei è bresciana, mi farà qualcosa da tipico bresciano, così devo dire, non ma lo come so. Fa una bergamasca ad andare d'accordo con una bresciana, scusa. È la mia migliore amica, vedi? Mamma mia. Questa è la coinè padana, grande fratellanza non sacerdotale, la fratellanza padana. Vabbè, io vi devo salutare, Marione, ovviamente, grandi auguri alla Juventus per una proficua annata, e che dire, chiamatelo tutti, tra poco mette giù, al 334-3798-534, facci sapere, Marione. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, sono le 7:18 minuti. Cari ascoltatori, siamo pronti, siamo qui. E vi ricordiamo che oggi alle 8:15 parleremo di abusivismo edilizio, ma lo sapete che ci sono 500.000 case, qualcuno dice, abusive in Italia. Torniamo su un tema che abbiamo già affrontato in passato, perché davvero vi vogliamo dare dei dati interessanti. Questo dalle 8:15 avremo anche, che cosa? Torneremo a raccontare la vita all'estero di alcuni italiani che ci ascoltano, pensate, dall'estero. Abbiamo iniziato questa iniziativa e ci state scrivendo da tutto il mondo. E scriveteci, 24 mattino e radio24.it. Ogni giorno uno di voi o una di voi vi chiameremo. Se ci ascoltate, siamo partiti dalle Seychelles, siamo andati in Africa, siamo andati in Siberia, siamo andati negli Stati Uniti, vi abbiamo scovato e ci ascoltate da ovunque. Ora intanto andiamo a leggere i giornali che trovate in edicola. È martedì 9 dicembre e i titoli intanto sono questi. Il Sole 24 Ore apre sui BTP, passano il test del rating, e anche l'Eurogruppo, cioè i 18 ministri dell'Unione Europea, ministri delle Finanze, che chiedono misure efficaci, più efficaci nei confronti dell'Italia, da parte dell'Italia nei confronti della crescita. La mossa del governo sul deficit, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. L'ipotesi è questa: se la recessione continua, taglio delle tasse, investimenti e sfondamento del 3%. Questa è l'ipotesi in prima pagina del Corriere della Sera. Per Repubblica, l'Italia all'Unione Europea non servono altre manovre. La risposta del

1000 miliardi di shopping, questa è la vera forza della lobby gay. È stato calcolato, racconta Marzio Mian, quello che è il valore dell'economia arcobaleno, la radiografia di una clientela considerata d'oro. Secondo le statistiche americane, gli omosessuali hanno un potere d'acquisto molto superiore agli etero e così è gara tra le aziende per compiacerli. Prima pagina del giornale, poi continua a pagina 18 questa interessante inchiesta di quanto vale lo shopping per il cosiddetto shopping arcobaleno da parte degli omosessuali. 1000 miliardi. Questa è la cifra. Ma siamo al momento conclusivo. La carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, mezza pagina, niente. Il Corriere della Sera devono avere qualcosa con William e Kate. Eccolo qui, mezza pagina. William e Kate, due inglesi a New York, con tanto di foto, incontrano Obama, incontrano Hillary, incontrano, pensate, il re del rap. Ma chi se ne frega? 24 mattino. Sono le 8 e 19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, partiamo da qualche numero per capire il fenomeno di cui vogliamo parlare oggi, o sul quale vogliamo tornare, per meglio dire. Dal 1948 ad oggi sono stati costruiti in Italia, si stima, oltre 453.000 interi edifici abusivi. Sono 7.314 all'anno, 20 al giorno come media. Cito questo dato che abbiamo trovato nella breve storia dell'abuso edilizio in Italia, scritto da Paolo Berdini. Ovviamente questi sono solo gli edifici totalmente abusivi. Poi ci sono gli abusi cosiddetti minori, cioè quelli relativi all'aumento di alloggi per sopraelevazione, ampliamento di edifici regolarmente autorizzati. Sempre in questo libro c'è scritto che un'elaborazione del Censis ha fatto affermare che dal 1971 al 1984, dunque in soli 13 anni, erano stati costruiti abusivamente circa 2.700.000 alloggi. Insomma, per farla molto breve, un italiano su sei vive in una casa abusiva, in qualche modo abusiva, magari in toto, magari non totalmente abusiva. Io saluto Paolo Berdini, che è urbanista, anche un blog sul Fatto Quotidiano, ha scritto questo libro, Breve storia dell'abuso edilizio in Italia. Buongiorno Berdini e benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, lo spaccato è inquietante, cioè mi viene da dire, uno da questi dati che cosa deve aggiungere? C'è poco da aggiungere, a volte 3-4 numeri fanno capire tante cose. Dove vogliamo andare in un paese del genere? Ma sa che combinazione particolare, ieri ho avuto l'onore di presentare lo studio che il Sole 24 Ore fa ogni anno sulla qualità delle città in Italia. Sì. E ho messo in correlazione proprio il fatto che tutte le città del sud stanno al di sotto del livello di guardia col fatto che hanno costruito in modo dissennato, cioè l'abusivismo porta a una carenza di qualità, porta a delle spese maggiori, perché è ovvio che i comuni poi devono spendere di più per portare i servizi in questo continuum edificato che c'è nelle campagne, in particolare del centro-sud, e questo è l'elemento che sta portando a picco il nostro paese, cioè il fatto che non abbiamo saputo programmare lo sviluppo del territorio, cosa che appena passiamo le Alpi vediamo che funziona, cioè lì si finisce la parte edificata e comincia la campagna. Da noi non finisce mai la parte edificata, c'è questo continuo che poi ci carichiamo sulle spalle del pubblico, nel senso che lì vanno portati tutti i servizi a rete. Sì, e soprattutto costruito così. Insomma, se avete capito, parliamo di questa, una delle piaghe italiane, l'abusivismo edilizio, al quale c'è sempre stata una risposta negli anni che è stata o condoni, Berdini mi corregga, oppure a dire come, ma che si fa? Si prende un italiano su sei, quindi un sesto della popolazione, la si butta fuori dalle case, si distrugge tutto. Qual è la risposta che si può dare? Qui c'è stato l'elemento, come dice lei giustamente, che ha giocato, cioè che è stato talmente diffuso il fenomeno che veramente è difficile pensare soltanto, no, a politiche repressive, alla demolizione. Però si poteva pensare a delle valutazioni molto più sfumate, più intermedie, cioè va bene, non demoliamo tutto, ci sono alcune zone che stanno in piedi, nel senso che sono interi quartieri, quindi uno non demolisce gli interi quartieri. Però le zone che stanno, le case che stanno in zone in frana, le zone a esondazione, dove purtroppo poi piangiamo i morti, forse lì lo Stato poteva far vedere che c'è la mano della tutela dell'interesse pubblico. E allora potevamo trovare una forma equilibrata, no, di intervento repressivo, cioè reprimere solo dove c'è un interesse pubblico, il resto magari... Magari no, ma guardi, ma su questo poi affronteremo, perché quando si dice che è un tema molto attuale è appunto questa la domanda che ci vogliamo porre, e cioè quando straripa un fiume e piangiamo i morti, ce la prendiamo con il fiume killer o con la montagna killer che ha franato, che in realtà fa solo il suo lavoro di stare lì, e cioè di fare la montagna che ogni tanto frana anche, oppure dovremmo prendercela a volte senza falsi piagnistei, con la nostra ipocrito modo di comportarci, anche con il nostro modo di violare le leggi. Però mi faccia capire, perché così le voglio presentare anche un altro ospite, professor Berdini, una breve e veloce mappa geografica di dove ci sono più abusi. Certo, ci ha detto più al sud che al nord, questo si può dire, diciamo un'Italia spaccata in due, ma ci faccia capire. Dunque, l'Italia è spaccata in due perché anche al nord ovviamente qualche abuso c'è stato, ma sono abusi, se posso dire, di piccolo livello. Io ho chiuso la veranda, ho cambiato la destinazione al piano terra, che prima era non produttivo, insomma era addirittura la vecchia stalla, è diventata casa. Fino a lì ci si sta. Ecco, nel centro-sud ci sono interi quartieri, la capitale d'Italia, Roma, dove vivo, ha 80, nell'85 perimetra 82 quartieri interamente abusivi, ma parlo di quartieri anche di 15.000 persone, quindi questo è il dato, no? 15.000 abitanti che sono nati abusivi, quindi non avevano ancora le fogne, non avevano l'illuminazione pubblica e l'impianto di acqua potabile, diciamo, nei pozzi, eccetera. Adesso questa situazione è in gran parte limitata al centro-sud, però le quattro regioni sono appunto il Lazio, la Sicilia, la Campania e la Calabria. Queste sono le quattro regioni che hanno il record dell'abusivismo. A proposito di Calabria, io voglio salutare il sindaco di Crotone, Peppino Vallone. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Professor Berdini, Crotone com'è? So che ha dei problemi anche di questo tipo, no Berdini? Devo dire, una grande occasione, io credo, perché la zona di Crotone, il sindaco che saluto, è una delle zone più belle, a giudizio mio, del mondo, perché lì c'era una città greca, c'erano dei templi, ecco, lì è stato mangiato, il parco archeologico individuato tanti anni fa è stato mangiato dall'abusivismo, quindi in quel caso torna l'ipotesi dell'intervento repressivo dello Stato. Intervento repressivo, che vediamo se è facile o se c'è. Intanto, sindaco, è davvero così, cioè è una situazione problematica a Crotone per quel che riguarda l'abusivismo? Beh sì, credo proprio di sì, come tutte le città del sud. Il professor Verdini la descrive diciamo con dati obiettivi dai quali è difficile prescindere. Gli anni 60, 70, 80, in particolare nel sud, nei nostri piccoli comuni, l'emigrazione era il dato scontato, e attraverso l'emigrazione si immaginava di ritornare al paesello natia e tutti i risparmi venivano investiti in edilizia. Quindi in particolare nei paesi, in una serie di comuni di piccole dimensioni, in particolare in Calabria, si assiste a questi giganti di fabbricati completamente inabitati, dove sono stati effettuati gli investimenti. Quindi era un fenomeno più che altro culturale, rispetto al quale ciascuno immaginava di poter ritornare al proprio paese, nel proprio comune. E questa è una cosa buona, sindaco. E questa era una cosa buona se fosse avvenuta nel rispetto delle norme edilizie. Purtroppo così non è stato, e quindi diciamo l'immagine che il professor Verdini dà della Calabria, anche della Calabria, insieme alle altre regioni, è un'immagine che risponde al vero, purtroppo. Però scusi, lei sindaco cosa può fare per contrastare il parco archeologico? Il parco archeologico, c'è una riflessione in atto con le soprintendenze, stiamo lavorando al piano strutturale e in questo momento stiamo valutando, appunto, nel dispetto anche delle indicazioni che venivano dal professor Verdini, quello che è salvabile e quello che invece contrasta con l'interesse pubblico superiore. E nel piano strutturale stiamo ipotizzando dei piani di recupero. La parte che è invasiva, le stesse soprintendenze considerano invasive rispetto al parco, lì va demolito e va trovata una soluzione. Una soluzione pubblico-privata, naturalmente, sì, che dopo 30 anni, 25 anni che abitano in quei fabbricati, diventa fabbricati di prima abitazione con famiglie sì, cioè, che abitano, diventa un problema di ordine pubblico, immaginare un intero fabbricato. Quindi l'ipotesi sulla quale stiamo lavorando è esattamente questa. La parte invasiva è che, diciamo, le soprintendenze ritengono indispensabile, diciamo, per l'ampliamento del parco, perché qua non è nel parco archeologico, è un'ipotesi molto lontana che le soprintendenze facevano di ampliamento del parco. Se continua a persistere l'interesse, questa è l'interlocuzione che stiamo avendo da 7-8 mesi con le soprintendenze, se considera ad essere, diciamo, predominante l'interesse pubblico delle soprintendenze, lì bisogna intervenire. Però io vorrei capire una cosa, mi scusi sindaco, e vorrei coinvolgere ancora il professor Verdini, cioè ci aiuta a capire di che cosa stiamo parlando, perché magari non tutti conoscono il parco archeologico su cui insiste l'area di Crotone, e la domanda è che dobbiamo sempre porci quando tratto di questi argomenti: mettiamoci nell'ottica, se qualcuno ci sta ascoltando dalla Germania, dalla Finlandia, da paesi dove queste cose non succedono, professor Verdini, che immagine si fa? Secondo me è un'immagine devastante, perché, appunto, lo ripeto, cioè qui siamo nella parte in positivo, no? Cioè un posto straordinario che potrebbe dare lavoro ai nostri giovani, perché c'è il gruppo che porta i turisti lì, e lì di turisti ce ne vanno pochi, proprio per questo, perché i turisti che vengono dall'estero sono abituati a vedere luoghi di altissima qualità. E allora io non vado a dare la Cina perché c'è di meglio. E invece, se pensiamo con i tempi lunghi della storia, noi facciamo il benessere di questo Stato. Insomma, dobbiamo ritornare a rivendicare la correttezza dell'intervento dello Stato. Perché però il sindaco che ne pensa? Esatto. Che governa gli interessi di tutti. Il sindaco, certo, il sindaco ci dice, nell'area archeologica di Era Lacinia, se l'interesse superiore del pubblico sovrasta quello che è l'interesse privato di quello che magari ha costruito la casa abusiva, lì si interviene. Cioè, a me verrebbe da dire, se anche un fienile è costruito abusivamente andrebbe subito distrutto, però forse sono troppo tranchant, Verdini e Vallone, vorrei Verdini, è un ragionamento troppo, come dire, troppo populista, demagogico, semplicistico, Verdini. No, purtroppo io sono completamente d'accordo . E quindi non la posso smentire. No, capisco, cioè, che però quell'italiano su 6 che vive così è un po' difficile. E sindaco, la stessa domanda la faccio a lei, cioè non verrebbe da dire è abusivo, basta, discorso chiuso. Guardi, se dovessi scrivere come il professor Verdini, analizzare sarei d'accordissimo, è tranciante, va demolita immediatamente, forse anche una stalla. Purtroppo non è una stalla ridimensionata, sono fabbricati di 3 piani dove abitano famiglie con tutte le problematiche. Capisco. Allora, se un interesse superiore risale agli anni 70-80, cioè, dove probabilmente questa cultura del bello era pure inferiore, mettiamola così, se c'è un interesse che sovrasta ed è un interesse di carattere nazionale, certo i comuni debbono fare la loro parte, perché però i comuni da solo non sono sufficienti. Cioè lei ci sta dicendo che in quegli anni in cui si è costruito non c'era questa cultura del bello, della valorizzazione dell'arte, dell'archeologia, quindi la gente pensava alla casa. Il parco archeologico di Capocolonna, nella sua interezza, probabilmente è completamente integro, è una parte, diciamo, ulteriore di quello che poteva essere, si immaginava poteva essere un ampliamento del parco, e nel momento in cui è stata realizzata, rifabbricata, insomma, io la conosco come storia, non l'ho vissuta come amministratore naturalmente, e la sto vivendo ora come amministratore per vedere le soluzioni possibili. Lì è era un ampliamento, quindi il parco nella sua interezza è integro, non è assolutamente interessato da fenomeni di abusivismo. Nelle parti limitrofe al parco, dove si, dove oggi, diciamo, da qualche anno si immagina un ampliamento del parco stesso, ci ritroviamo a queste problematiche. Però sulle problematiche c'è un interesse, diciamo, superiore, credo che è un interesse pubblico che sovrasta i poteri, le possibilità di un sindaco. Se fosse un fienile saremmo andati e l'avremmo abbattuto. Lo so, ma infatti lei ha un problema, dice lì ci sono persone che vivono. Però è interessante, prima di andare in pubblicità, Berdini, che ne pensa della lettura del sindaco che dice anche forse negli anni 70, laddove si è costruito molto più di adesso, non c'era quell'attenzione, quella cultura, quel rispetto verso il bello che poi è arrivato, ma ormai quando è arrivato c'erano, che si fa di fronte alle persone che vivono nelle case? Però questo, se posso dire, è il nodo scorsoio che abbiamo intorno al collo di questo paese, perché noi abbiamo buttato al vento delle possibilità economiche e culturali di sviluppo che sono inaudite, perché siamo il paese più bello, adesso senza retorica, però veramente siamo il paese che ha il più alto numero, no, di siti dell'UNESCO, eccetera, eccetera. E allora è questo che mi piange il cuore, perché oggi ci dibattiamo in una crisi economica più devastante degli altri paesi proprio per questo motivo di aver gettato al vento un patrimonio insediativo che era il più straordinario del mondo, perché abbiamo una stratificazione storica straordinaria. E adesso piangiamo la mancanza di lungimiranza. Sì, esatto, è proprio una mancanza di lungimiranza. Io capisco che non sia facile di fronte a quell'italiano su sei, un italiano su sei, vuol dire milioni, scrive il professor Berdini nel suo libro, che vivono in case in qualche modo abusive. Che si fa? Cioè, è chiaro che io dico buttiamo giù, è ovvio, poi che si fa? Tutti quelli che vivono lì, non è che si buttano le persone per strada. È chiaro che è un problema che abbiamo ereditato da decenni. Vorrei sentire Vincenzo da Livorno prima di andare in pubblicità. Ovviamente chiamateci all'800 24 0024, poi riprendiamo tra un attimo. Vincenzo da Livorno, buongiorno. Lei che ci vuol dire? Buongiorno. Senta, Io sono disoccupato da più di 2 anni. Sì. Ho dormito un anno e mezzo, sono stato sfrattato. Ho dormito più di un anno e mezzo in un furgone al freddo. Dopodiché sono riuscito a recuperare 1.000 euro. Ho fatto una capanna di legno in una zona industriale, sì, abusiva, perché naturalmente non ne potevo più di stare al freddo. Ma cosa devo fare? Il comune non ha le case. Dice, lei non sei iscritto, non so, non aveva diritto a una casa popolare. Io sono solo, qui ci sono tante famiglie che hanno figli. Non aveva diritto. Insomma, lei dice, io vi sono costruito una capanna, quindi una casetta, diciamo così, abusiva, casetta, ovviamente. Di legno, per ripararmi dal freddo la notte e dall'acqua. Non ho fatto niente di che. Mi sono arrangiato perché mi è stato detto che case non ce ne sono. Arrangiati. Mi hanno fatto un esposto e mi hanno anche denunciato. E ora non so nemmeno che sta facendo, ma andrà a finire. Dovrò per abusivismo, immagino. L'hanno denunciato perché? Per abusivismo edilizio. Ma cosa dovevo fare? Cosa dovevo fare? 53 anni, mi presento a cercare un lavoro, mi dicono sei troppo vecchio. Per la pensione sono troppo giovane. Cosa devo fare? Devo andare incontro a un treno? Guardi Vincenzo, questa domanda alla quale io non ho una risposta, sospendiamola così, andiamo in pubblicità. Io ringrazio intanto il sindaco di Crotone, Peppino Vallone, per essere stato con noi. Rimane invece il professor Berdini e magari le darà una risposta da urbanista, da autore di questo libro. Stiamo parlando degli abusivismi edilizi in Italia. Certo, la sua storia, come dire, è una storia molto, molto limite, molto estrema. La maggior parte degli abusi edilizi non sono stati così, tra virgolette, di necessità come la sua, quella di dire che devo fare, devo avere un tetto sotto cui dormire, mica posso dormire per strada. 24 mattino. Allora, stiamo parlando di abusivismo edilizio e di vari abusivismi. Siamo con il professor Paolo Berdini, urbanista, anche un blog sul Fatto Quotidiano, ha scritto un libro, Breve storia dell'abuso edilizio in Italia, si occupa soprattutto, ma non solo, di questo tema. Chiamateci all'800 24 0024. Sono anche arrivati tanti sms, professore, magari tra poco qualcuno glielo girerò. Intanto però una considerazione all'ascoltatore di Livorno che ci ha posto una problematica estrema. Che gli dobbiamo dire a quell'ascoltatore che dopo un anno e mezzo, qualche mese, insomma, su un furgone a 53 anni non aveva un tetto e si è fatto una capanna? sono storie che non si vorrebbero sentire in un paese che guarda il futuro, e quindi qui c'è l'intervento pubblico, cioè il comune deve, poi il comune dirà che non ha i soldi, che c'è il patto di stabilità, diranno tutte le, però credo che uno Stato che guarda davvero il domani della propria popolazione deve considerare che c'è una piccola parte, spero sempre più piccola, di popolazione che non ce la fa da sola. Era quello che diceva Luigi Luzzatti nel 1903, quindi appena 110 anni fa, quando da bravo liberale di destra disse che bisognava fare gli istituti per le case popolari. Poi l'evoluzione delle case popolari stanno sotto gli occhi di tutti, e a Milano ce lo dice. Però c'era un'assunzione in solido, no, da parte della cultura del governo di allora, del destino di una popolazione. No, ma dobbiamo tornare a quello. È ovvio che non è questo, come dire, l'abusivismo, come il nostro ascoltatore di Livorno, che sentiamo di condannare tu cura a 360 gradi e puntare il dito. Sono ben altri gli abusi edilizi di cui si parla, e i condoni, e la politica che ha portato negli anni a questo tipo di malaffare, che, mi scusi, quanto è diffuso nel mondo? Cioè, mi faccia capire, è una peculiarità italiana, c'è un po' ovunque. No, in Europa siamo gli unici. Non potete sempre andare in nessun altro paese, non ci capiscono. Quando uno gli dice no, ma da noi ci sono interi quartieri abusivi, rimangono sconvolti, nel senso che lì appunto c'è la funzione dello Stato, e lo Stato interviene. Forse in Europa però non ci vogliono 8.786 carte per costruire, non lo so, un pilone in cemento, ma è anche questo magari è da dire. Vabbè, comunque sentiamo qualche ascoltatore. Claudia da Napoli, buongiorno Claudia. E buongiorno a voi. Dica. Allora, io volevo fare questa domanda, ma per una persona, un soggetto, un cittadino che ha comprato casa con licenza, ha pagato tutti i servizi, quindi fogne, illuminazione, io sono da 23 anni e oltre, mio marito ha comprato nel 91 in una località in provincia di Napoli, Giugliano in Campania, diciamo, una località sul litorale Domizio, sì, quindi la Copate, Vascature, eccetera. Non abbiamo ancora le fogne dopo 23-24 anni, avendo pagato regolare licenza, tutti i servizi annessi e connessi previsti, noi dopo 24 anni non abbiamo né le fogne, un problema, né contrario, il metano, né niente. Noi paghiamo cifre blu in termini di tasse e non abbiamo nulla. Vabbè, lei Claudia da Napoli quindi ci dice quasi una situazione ribaltata. Grazie per il suo intervento. Vorrei andare a Chieti da Ugo. Ugo, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare un'osservazione. Negli ultimi 20 anni io non nego la presenza dell'abuso edilizio, degli abusi edilizi. Io faccio l'ingegnere, ho lavorato moltissimo sull'abusivismo edilizio. Ma il grande problema è quello degli accordi di programma, delle costruzioni in deroga. Cioè, se si costruisce oggi in modo intensivo nelle zone agricole, non è perché c'è il piccolo fabbricato rurale, perché si fanno le perequazioni, cioè si spostano in modo regolarizzato, in modo assolutamente legale, grandi volumetrie da zone edificabili a zone agricole. E questi non sono abusi perché sono regolari, ci sono tutti i permessi, ma sono operazioni fatte in deroga. Sì. Questo è il grande problema che c'è oggi, di cui non si parla mai. Cioè, quando vi si dice cosa succede se esonda un fiume, benissimo, ci sono stati decine di casi di abusi edilizi, di case costruite in prossimità di corsi d'acqua, eccetera. Sì, sì. Ma quanti complessi edilizi si fanno in piena regola, in zone nelle quali non si è mai potuto costruire prima? Professor Berdini, vuole rispondere lei alla nostra ascoltatore da Chieti? Che ha ragione da vendere, è proprio questo, è il tarlo che sta corrodendo l'Italia, continua oggi con tutti i patti in deroga, le costruzioni in deroga, accordi di programma, eccetera, eccetera, eccetera. Però non c'è nulla di somigliante con l'abusivismo, cioè lì c'è la pubblica amministrazione che, nel caso in cui diceva l'ingegnere, va sanzionata, ovviamente, se dà il permesso di costruire in zona di esondazione va sanzionata. Però c'è un'assunzione in carico, se posso dire, da parte di un'amministrazione pubblica del permesso di costruzione. Mm. che è da sanzionare se appunto mi ha molto colpito laddove ci sono case abusive, molti ci scrivono a dire: ma perché non si possono staccare le utenze? No, addirittura ci ha sentito l'ascoltatrice a Napoli, dice: noi paghiamo tutto, non abbiamo fogne, eccetera. E invece paradossalmente, Berdini, succede che ci sono case abusive con le utenze, l'allaccio della luce, l'allaccio del gas. Ma com'è possibile una cosa del genere? Questo è l'altro mistero italiano, perché la legge dell'85, pur essendo una legge criticabile dal mio punto di vista, da molti punti di vista, perché diceva che l'abusivismo, vabbè, tiriamo un colpo di spugna, però diceva che da domani mattina gli enti di erogazione dei servizi pubblici, quindi all'epoca l'Enel, eccetera, eccetera, adesso con le liberalizzazioni molto di più, non potevano allacciare le case che non avevano titolo abitativo. Ma nessuno ha rispettato questa legge, e non c'è stata nessuna autorità pubblica che ha fatto rispettare la legge. Appunto, quindi... perché c'è una legge che vieta l'allaccio, in teoria. Assolutamente. Assolutamente. Ovviamente non applicata. Alfonso, no. Da Roma, buongiorno, cioè non rispettata da molti. Alfonso, buongiorno. Buongiorno a tutti. No, io volevo intervenire, poiché ero assolutamente d'accordo con il sindaco di Crotone, che diciamo, mettendomi nei suoi panni, capisco la situazione che sta vivendo. In pratica la mia osservazione è questa, è che per tanti anni si è consentito di costruire queste case abusive, nel senso che non è che la casa nasce come un fungo, ci vuole del tempo, ci sono degli operai che devono costruire, ci sono i vigili urbani che chiudono notti. E come no, come ci ha scritto sempre un sms, dice: ma sì, come ci vogliono mesi, perché dopo un giorno non arrivano i carabinieri? Ecco, allora, perché non arrivano i carabinieri? E c'è una caserma, perfetto, e c'è una caserma in tutti i comuni italiani, quindi per decenni sono costruiti centinaia di migliaia di alloggi abusivi. Ad oggi, come dicevamo prima, un italiano su sei vive in una casa abusiva. Secondo me ad oggi, dove c'è veramente un interesse nazionale, come un parco archeologico, e ci costruiamo un mostro, un ecomostro, quindi sono delle situazioni eclatanti, vanno abbattute. Se no, praticamente c'è una casetta abusiva nel comune Pincopallino, dove praticamente ormai ci vive una famiglia da anni, considerate pure la situazione economica in cui si trova oggi l'Italia, secondo me potrebbe essere confiscata e il proprietario deve pagare una sorta di rata, una sorta di tassa per potersi praticamente riappropriare dell'immobile, così abbiamo anche un ritorno economico, anche perché considerate le centinaia di migliaia di alloggi che ci sono, abbatterli ci vogliono 20 anni. Altro che vent'anni. Quindi che succede? Un abusivo che costa, si abbatte una casa oggi, e costa. L'ultimo abusivo gli si abbatterà. No, ma non solo, anni. E abbatterle costa tantissimo, e che lei vuole chiedere i soldi a uno degli abusivi che dice magari: ma no, io non ce li ho i soldi. Professor Berdini, qui siamo insomma in conclusione di questo viaggio nell'Italia un po' disastrata, che ci fa dire a conclusione che cosa, a lei? È che l'ultima domanda, secondo me, ha colto l'elemento, anche questo che era già previsto in legislazione. Qual è la cosa che a me veramente dispiace del fenomeno dell'abusivismo? Che c'è chi fa il furbo e c'è il costruttore onesto che paga tutti gli oneri. Quindi, se ci pensate, è una turbativa di mercato. È chiaro. Allora, la legge dell'85 diceva una cosa che diceva l'ascoltatore. Diceva: guardate che qui, magari nel caso dove non sia possibile abbattere perché c'è la famiglia, insomma tutte le cose che abbiamo detto questa mattina, lo Stato l'acquisisce e l'eredità, se c'è ovviamente il diritto, no, economico della persona, non c'hanno reddito, alle stesse persone che l'abitavano. Mm-hmm. Quindi io ho colpito il portafoglio di quella persona che aveva fatto il furbo. Sì. Anche questa norma ragionevolissima non è stata applicata. Mai. Insomma, mai. Neanche le norme che ci sono vengono applicate, quelle ragionevoli neppure. Professor Berdini, io intanto la ringrazio. Su questo tema torneremo, perché è un nostro vizio tornare sui temi che vedo prendono molto anche gli ascoltatori. Paolo Berdini, ricordo, urbanista, Fatto Quotidiano, ha un blog sul sito del Fatto Quotidiano, ha scritto questo libro, Breve storia dell'abuso edilizio in Italia, ma usciranno credo anche altri libri a breve. Andiamo a sentire però il traffico e poi scopriremo chi ci ascolta dall'estero, questa iniziativa che abbiamo fatto partire qualche tempo fa. 24 mattino. Eccolo qua, Ciao Italia, la nostra iniziativa nella quale scopriamo chi ci ascolta dall'estero. Oggi andiamo veramente lontano, lontanissimo, ve lo devo dire. Voglio salutare Chiara. Chiara, buongiorno, buonanotte, buonasera, Chiara. Buongiorno Milan, qui è pomeriggio, però va bene anche buonanotte. Attenzione, qui è pomeriggio, qui dove? Sono a Perth, quindi nell'Australia occidentale, in quella che viene definita la città più isolata del mondo. Perth, in Australia, ma mamma mia, sei lontanissima, ti sentiamo benissimo, facciamo queste cose veramente, ti sentiamo benissimo. Che ci fai in Australia, Chiara? Io in Australia sono emigrata nel 2010 quando avevo finito l'università in Italia e poche opportunità per un neolaureato e quindi sono venuta in Australia, ho fatto un master e ho trovato lavoro e ora sono rimasta qui e tra poco divento cittadina australiana. Ah, bellissimo. Tra l'altro la città è vero più isolata del mondo perché lì sono tutte le grandi città, sono soprattutto nella zona orientale dell'Australia, no? Sydney, Melbourne, Brisbane. Io sono, sai che sono stato a Perth, è fantastica Perth. E poi se andate a Perth ovviamente dovete prendervi un paio di giorni di tempo a andare su a nord a Monkey Maya, vero? Me lo ricordo bene? Monkey Maya, stupendo. Continuare ad andare al nord fino a Broome, ci sono dei paesaggi stupendi. Spendi e ne vale la pena a fare tutti quei chilometri di strada. Tra un po' diventi australiana, vuol dire che cosa fai? Volti le spalle all'Italia, no? Sì. Per ora sì, perché diciamo che non mi sembra, rispetto a quando sono andata via, non mi sembra che la situazione sia cambiata e ascoltandoti ogni mattina c'è sempre un nuovo evento, quindi direi che per ora torno in Italia soltanto per le vacanze natalizie. Stai lì. Poi non si fa. Però ci ascolti di Chiara, oggi noi dobbiamo fare una carrambata di quelle clamorose, perché io voglio salutare un'altra ascoltatrice che si chiama, pronto? Pronto. Chi sei? Sono Eva. Io chiamo da Perth. Sei di Perth anche tu, ci avete scritto in due, sì. Ma è fantastico. Eccola qui la carrambata, ma Eva, conosci Chiara? Vi conoscete o no? Non credo, io perché devo fare una precisazione, io chiamo da Frimento, che probabilmente Chiara conoscerà, sì. Che è una piccola cittadina di Porto a pochi chilometri da Perth. Vabbè. Quindi non so, sicuramente Chiara ci sarà passata, sicuramente. Vabbè, quindi anche tu Eva, però ci ascoltate, ci hanno scritto tutte e due, diciamo, da Perth, ho detto, qua dobbiamo fare una carrambata, dobbiamo chiamarle senza... Anzi, adesso voi avete un compito, cara Eva, cara Chiara, voi avete il compito di incontrarvi, adesso vi scambieremo le mail, e fate un bel selfie e poi ce lo manderete, e così dobbiamo fare la carrambata fino in fondo. Eva, tu Eva che fai invece lì dalle zone di Perth? Allora, io lavoro come pastry cook, come pasticcere in un ristorante, dove in realtà oltre ai dessert faccio pasta, tortellini, agnolotti, insomma porto alto il nome della buona cucina italiana, almeno ci provo. Che insomma si vende ancora bene l'Italia da questo punto di vista, quindi almeno su quello non abbiamo concorrenza. Andiamo sul sicuro, soprattutto sul cibo, è la cosa che va veramente ancora di più dell'Italia, il cibo, Eva? Sì, purtroppo sì, infatti sarebbe bello se insomma si esportasse anche altro dell'Italia, perché l'Italia è così bella e ricca di tanto che insomma, è un po' un peccato che si riduca tutto al cibo e al vino e alle Ferrari, per quanto ci teniamo... Per quanto da pasticcera non è neanche male. Però io vorrei capire, tu Chiara come ci ascolti? Sullo streaming, sulla app? Come... Io di solito vi ascolto in podcast quando finisco di lavorare, quando vado in palestra, o altrimenti se sono in ufficio e sono abbastanza tranquilla vi ascolto in streaming. Fantastico. E tu Eva? Al ristorante forse? Anche io vi ascolto, sì esatto, perché vi ascolto in streaming perché posso lavorare separatamente dal servizio della cucina, quindi mi metto da una parte mentre preparo le mie cose, mi sento... Ma è fantastico. Quanti gradi ci sono in questo momento, Chiara, a Perth e da quelle parti? Oggi devo dire che fa non caldissimo, però siamo intorno ai 25 gradi. Beh. E devo dire che per essere questo periodo è anche abbastanza freschino. ci accontentiamo. Ci accontentiamo. Ci accontentiamo. Chiara ed Eva, noi vi mandiamo un abbraccio fortissimo, che arrivi lì fino all'Australia, Down Under. Mi raccomando, dovete incontrarvi adesso, avete questo compito, e farci una foto, così abbiamo fatto conoscere anche due italiane che ci ascoltano da Perth o Fremantle. Grazie Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè in regia. A domani.